Europa 24. Europa 24 che riparte invece dal Lussemburgo. Un saluto da Gigi Donelli. Oggi incontro, vertice dunque, dei ministri degli interni dei 28. Si parla di terrorismo, di sicurezza, di immigrazione. Una nota poco fa del ministro degli interni tedeschi Thomas de Maizière, che dice: guardiamo con preoccupazione ai flussi migratori ed è una questione che ha a che fare con l'Europa. Mare Nostrum è stato uno strumento di emergenza e si è trasformato in un ponte verso l'Europa. Le mafie stanno guadagnando migliaia di milioni di euro. Dunque un'affermazione pesante che sicuramente fa discutere, questo all'inizio dell'incontro che si protrarrà fino a questa sera. Infatti è previsto una cena. Allora, Beda Romano ci fa il punto sull'incontro di Lussemburgo. L'Italia sta approfittando della presidenza di turno dell'Unione per tentare di rafforzare la collaborazione tra i paesi europei sul fronte dell'immigrazione clandestina. Il governo ha presentato stamani, qui in Lussemburgo, dove si svolge un consiglio dei ministri degli interni, un nuovo quadro di riferimento per meglio gestire l'arrivo di immigrati. L'obiettivo è di uscire dalla logica dell'emergenza e considerare la questione un problema più strutturale. Le linee guida prevedono un ulteriore rafforzamento di Frontex, l'agenzia europea di controllo delle frontiere, e una maggiore collaborazione tra i Paesi membri. L'iniziativa italiana giunge mentre la Commissione europea sta mettendo in piedi una nuova operazione per meglio gestire l'arrivo di rifugiati e immigrati sulle coste europee del Mediterraneo meridionale. Triton, questo è il nome dell'operazione, dovrebbe nel medio termine prendere il posto di Mare Nostrum, almeno nelle speranze del governo italiano. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Lussemburgo. E intanto l'Unione Europea chiede ai colossi del web, in particolare naturalmente Google, Facebook, Twitter, di collaborare alla lotta contro l'estremismo e lo jihadismo in rete. Stando appunto a quanto raccontato, anticipato oggi da France Press e citando un portavoce della Commissione, nel vertice che, come abbiamo sentito, è in corso, Cecilia Malmström e diversi ministri europei chiederanno appunto ai colossi di agire di fatto per impedire che il web diventi quello che di fatto è già diventato da tempo, un canale di trasmissione e di comunicazione dei movimenti jihadisti, che spesso appunto fanno reclutamento attraverso la rete, attraverso gli strumenti da cui dispongono. Naturalmente il problema sarà, come sempre, incrociare questa aspettativa all'esigenza di libertà di cui l'Europa si fa portatrice. E ancora, la Commissione europea, intanto, di concerto con gli Stati membri, ha deciso di liberalizzare due mercati delle telecomunicazioni, di ridefinire altri due per tener conto dell'andamento del settore e dell'evoluzione tecnologica. Le nuove norme avranno effetto immediato. I due settori liberalizzati sono il mercato al dettaglio per l'accesso alla telefonia fissa e il mercato all'ingrosso per la raccolta delle chiamate in postazione fissa. Con questo è tutto. Naturalmente torneremo a parlare di Europa nel corso di GR 24. Con noi l'appuntamento per domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.